È stato Mattarella a dirci che noi possiamo venire in Italia, quindi noi vogliamo wifi, wifi, anche stipendio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Signori miei, ho rivalutato bello figo, mi stavo sul cazzo anche lui, ma da quando ho scoperto che c'è gente che dà ancora dei soldi a Richard Benson, che tra l'altro giustamente li prende per il culo e non gli dà un cazzo, manco CD, si becca solo il grano, quindi bello figo ha ragione, l'italiano medio è proprio un coglione, cioè siamo un popolo di coglioni, diamo i soldi a Richard Benson, diamogli. Parenzo, ho scoperto oggi che è davvero tutto finito, cioè in realtà l'avevo scoperto ieri, ho scoperto che è tutto finito, caro Parenzo, perché quando la Corte di Cassazione in Italia, di Cassazione perde il suo tempo a decidere se un'aragosta soffre oppure no, certo. E alla fine decide pure che sì, l'aragosta soffre, dunque certo, non certo. Può stare al ghiaccio, non no. Può avere le chele legate. Ma al contrario, bisogna che venga tenuta prima di essere bollita, prima di essere usata, prima di essere uccisa, venga tenuta bene, perché anche le aragoste soffrono. Chiaro. Se la Cassazione arriva a decidere questo, multando un ristoratore di Firenze per euro 5.000, perché aveva esposto le aragoste, quelle che sono, come si chiamano, gli astici. Come tutti quanti li espongono nel ghiaccio, perché vogliamo dirla fino in fondo, chi se ne frega se soffrono? Chi se ne frega? Beh, se le aragoste soffrono, dispiace, amico mio, dispiace. Non me ne frega nulla a me se le aragoste soffrono. La Corte di Cassazione è tutto finito. Mamma mia. Allora, spopola su internet a proposito di terremoto, di neve, di tutto quello che sapete, insomma, l'albergo sepolto, eccetera, eccetera. Tragedia infinita. Spopola umana. Su internet un video di un signore che noi conosciamo bene, perché li conosciamo tutti questi qua. Sì. Un signore. Se noi siamo matti, noi voemo, come dicono in Veneto. Se anche, noi tu, matti, anche tu l'hai visto? Anche tu l'hai visto quel video? Ma è agghiacciante, me l'hanno segnalato. No, perché? Cioè. Perché? No, perché? No, il mitologico perché? Antonio Locascio. Dai. Locascio, sì, sono il Locascio. Mitologico Antonio Locascio, Locascio quello sì, con la barba lunga, sì, che dice delle cose pazzesche. Ragazzi, è un video un po' forte. Un po' forte, però ci sta. Costui si incazza, che in realtà è un po' un teatrante, si incazza perché non sono arrivati a destinazione, questa è una cosa vera però, 28 milioni di euro dagli italiani donati, mai fare una cosa del genere, mai dare un euro via sms, non bisogna mai farlo. Non è vero, dipende mai, chi ti chiede i soldi. Mai, sempre controllare dove controllare... i soldi vanno destinati. No, ma chi te li chiede, se te li chiede ad esempio... No. Le fondazioni, sono fermi, quelle certificate, sono fermi, no, questo non è vero. Sono fermi alla tesoreria dello Stato, 28 milioni che gli italiani hanno dato per il terremoto, per le catastrofi, eccetera, eccetera. 28 milioni di euro. Costui, signor Locascio, un teatrante, si incazza per questo. I moduli abitativi ancora non sono arrivati, gli animali stanno morendo, io sto parlando della provincia di Macerata, tanti agricoltori sono stati costretti a vendere gli animali per poter aggiustare i capannoni. I soldi non sono arrivati, l'umessaggino, quello che dovevamo mandare noi, non l'abbiamo mandato, i messaggi abbiamo mandato i soldi, che cazzo di fine hanno fatto i soldi? di cosa parlano i telegiornali questi giorni? Di cosa stanno parlando? Del decreto salva banche. Il governo sta stanziando 20 miliardi per salvare le banche, che sono quelle che hanno ammazzato e hanno mandato in rovina un sacco di italiani. Ma c'è state a piappa il culo! C'è state a piappa il culo! C'è state a piappa il culo! Allora, hai sentito il collegamento, no? Il collegamento molto raffinato da parte del signor Locascio. Costui si chiama Antonio Locascio. Vi è arrivato, a molta gente è arrivato questo video, andatelo a vedere. Antonio Locascio è uno che è esploso, era lì immerso nella neve, caro Parenzo, immerso nella neve. Locascio, sì. Locascio, Antonio Locascio, sì, che sei ammutolito, sì, che c'hai di fronte, no, a Locascio? Ammutolito nel dire che non è che... Cioè, i soldi dettati alle banche è un'altra cosa, dice, non c'entra nulla, nulla. Ma assolutamente. È una di quelle più grandi cazzate che si mettono insieme in queste ore per mettere tutto su tutti i ladri, i soldi non arrivano mai, una stupidaggine mega galattica. Senti, ad esempio, senti, la raccolta fondi fatta dal Corriere della Sera e dalla Sette per Amatrice. No, ma perché devi fare vai sempre il lecchino? No, perché devi Teleton, leccare sempre il culo? Teleton, dai, Teleton, su. Teleton, Teleton, Teleton, dai, quel signore lì è un cretino. È un cretino. Aspetta. Perché non sa di cosa parla. Senti, senti. Non sa di cosa parla. Senti. Imbecille. Qua ci sono centimetri, metri di neve, ci sono posti che non sono neanche raggiungibili dall'esercito, dalla protezione civile, dai vigili del fuoco, non sono arrivati i moduli abitativi, non sono arrivati i soldi per aiutare i terremotati. Ma che cazzo volete? Ci volete ammazzare? Volete che il centro Italia sparisca? Merde, merde, merde, merde. Antonio Locascio, tu dici capito, che è totalmente un cretino, un totale, un pazzo, un no, coglione assoluto. È un disturbato. Io non posso usare altre. Sempre se è vero, persona, questo sfogo, sempre se. Ma se è un disturbato, un evidente disturbato. Dai, chiudi. Poi dice: chiudi, non chiudi, censurate chiudi questo video. No, non censurate. Censura, governo di merda. Ma che governo, come fa a censurare il tuo video? Che non sai neanche chi sei tu. Con la roba che la gente ha da fare, che Gentiloni ha da fare, non sai neanche chi sei tu. Però bisogna dire la verità, non sarà, il governo non lo saprà. Però guarda che questo video arriva nelle caselle postali di un sacco di gente. Ma questo è il grande tema, infatti. Questo è il grande tema della te lo mando, post-verità. Per questo te lo mando, è per questo lo faccio sentire. Della famosa post-verità. Per questo lo faccio sentire. Questo è un contesto in cui qualunque idiota ha lo stesso valore di un premio assolutamente, Nobel. Assolutamente. E non va bene questo. No, va benissimo. Non è che qualunque idiota può intervenire su qualunque cosa e la gente non distingue. Io non mi metto a parlare di fisica nucleare, ad esempio. Io voglio mangiare vive le aragoste, comunque. Voglio mangiare vive le aragoste. Ma questo è un altro tema ancora. Aspetta. No, invece oggi mi allarma molto una aspetta, cosa fammi sentire l'ultimo pezzo di Locascio. No, c'è il psicologa dei cani. Tu aspetta, ma sei un dramma aspetta, assoluto. Aspetta, aspetta. No, ma che ridi? Locascio, senti, fammi ma sentire. Ma che Locascio? È un imbecille. Dovete fare in modo che questo video lo veda tutti. A me non me ne frega un cazzo, bloccatemi, segnalatemi, fate come cazzo vi pare. Noi ci siamo rotti i coglioni di essere presi per il culo, avete capito? Non vogliamo più essere presi per il culo. Vabbè ragazzi, il punto fondamentale è molto semplice. Su una cosa però, su una cosa il signor Locascio ha ragione, non è nel possibile. Suo delirio, il signor Locascio ha ragione su una cosa. Che ci sono quei soldi bloccati. È vero o no che ci sono quei soldi bloccati? La risposta è sì. Guarda un articolo oggi, non mi ricordo dove, sulla stampa. I soldi sono bloccati, basta, quello è vero. E la burocrazia blocca i soldi. Forse non sanno non come sempre spenderli. Ma in questo caso sempre. Sì, in questo caso sì. In questo caso sarà comunque, vero, ragazzi, ma non sempre è così invece. Chi è che discute di terremoto? Secondo te, fai un indovinello, caro Parenzo, sì, chi è che sentiamo. Parla di terremoto e dice che ci si occupa di migranti e si dimenticano gli italiani sotto la neve? Secondo te? Dunque, dai, fammi pensare un secondo. Dai, forse è un signore che ha fatto un partito che una volta voleva l'indipendenza della Padania, avevano delle corna in testa. Ci stai andando molto andavano vicino. Andavano a raccogliere l'acqua fuoco, sul Monviso, parlavano del sacro fuoco. Come si chiama? Forse di nome? Si chiama di nome come l'ex presidente del Consiglio Matteo? Sì, Salvini chi può. Cioè è andato delle zone terremoto, delle zone aspetta, del disastro. Senti. No, non voglio sentire. No, sei, vado fuori. No. Non lo voglio sentire. Ho il diritto, sono pagato, no, ma ho il diritto da pagato di non sentirlo. No, apro la porta, allora, guarda. Vattene, no, vattene. Esci dalla porta, sì, esci, va per culo, vai. Non è possibile che da tre giorni ci siano migliaia di persone isolate adesso, che qualcuno si occupi dei diritti dei migranti dalla mattina alla sera e si dimentichi degli italiani che sotto la neve, mi sembra veramente incredibile. Ma è tornato, se n'è andato sul serio, se n'è andato? Cioè se n'è andato? Cioè non vuole sentire Salvini che dice ci si occupa dei migranti e si dimenticano gli italiani sotto la neve, vabbè. hanno trovato i soldi per le banche e le trovino per l'emergenza. Sempre questo, no, questo collegamento banche emergenza. Oggi stesso abbiamo chiesto lo stanziamento di 100 milioni di euro per gli interventi immediati, e se hanno trovato 20 miliardi per le banche penso che possano trovare 100 milioni. Cioè, sei tornato? Si può tornare? È finito Salvini? Sì, torna. No, se vado via, no, torna. No, non voglio sentirla, da oggi non voglio sentirla. No, non voglio, vabbè, dai, non esagerare, no, dai. Non interessa. Ritorno, se vai a sentire Salvini me ne vado, eh? No. Pagato, no, però, no. Pagato. Senti, no, troppo comodo, senti la Beccalossa, la Beccalossi, però. La Beccalossi la vuoi sentire, la Beccalossi? Chi è la Beccalossi? Quella la biondina bionda. No, sì. Voglio sentire la Beccalossi, no, vado, no, via. No. Non me ne frega, non voglio, dai, più sentire questa gente. No, vabbè, sbatti la porta. Sbatti la porta. Sbatti la porta. Basta, è un mio diritto. Oggi ci rimbocchiamo le maniche e si lavora per il bene dei nostri concittadini italiani. Domani però, allora, non faremo sconti a nessuno, perché non è possibile trovare soldi per salvare le banche, per mettere finti profughi negli alberghi al caldo, e intanto gli italiani stanno nei faremo container. Faremo i conti dopo. Immigrati al caldo, italiani nei container. Parenzo, commenta sta cosa, rientra, dai. Niente, non vuole sentire la Beccalossi e Salvini, gli fanno schifo queste cose qua. Vabbè, ma ragazzi, è il dibattito normale, dai, è un dibattito. Sono un po' delle cazzate, eh? Immigrati al caldo, italiani nei container. David, c'è Poletti. Pronto? C'è Poletti. È finita sta no, roba? Poletti, ti faccio ascoltare. Aspetta, Poletti. È intervenuto anche Poletti. Poletti, il ministro? No, no, o Roberto Poletti, Roberto, di Quinta Colonna? Senti. Non voglio sentire no, questa gente. No, questo sì, non ti prego. Voglio... Questo sì, senti. Stiamo ospitando in hotel al caldo gente che arriva dall'altra parte del mondo. Pensa anche che tanti nostri connazionali, che hanno il solo difetto di non alimentare certi business, sono stati lasciati soli. Ecco un altro. Con la voce tremante. Penso che ci sono. Ma cosa dici? Poi non gliene frega un cazzo. Io, conoscendo Poletti, non gliene frega una mazza. No, ma questo non lo so. No, ma non... nulla. Te lo cosa nulla. Dice? Cosa è la più grande balla? No, ma la cosa più incredibile storia, è quella. Che una dei 5 Stelle. I soldi per i migranti non c'entrano nulla con i soldi che vanno alle persone che hanno subito un terremoto, allora, o una calamità naturale. Niente. Allora, aspetta un attimo. No, non aspetto più niente. Aspetta, vado un secondo. Via. No, vado, vai, adesso, via. Questa fissazione di andare via. Adesso, aspetta. È bello, no, via. Aspetta. Allora, perché una dei 5 Stelle questa mattina, l'ho sentita con le mie orecchie, ha detto: beh, quello di Salvini è uno sciacallaggio. Quello di Salvini è uno sciacallaggio. Vabbè, a parte che loro sono esperti spesso di sciacallaggio. Ma questi erano gli stessi che quando ci fu il terremoto, ma Di Maio, mesi fa, Di Maio, dissero che il governo aveva taroccato. No, ma Di Maio, senti Di Maio ieri. Cioè, senti Di Maio, cioè una dei 5 Stelle, credo una del famoso direttorio dei 5 Stelle, ha detto una cosa: cioè, basta sciacallaggio di Salvini, eccetera. Senti Di Maio ieri sul campanile crollato. Il campanile di Amatrice è il simbolo dei ritardi di questa emergenza da parte del governo. Quel campanile ha subito la scossa del 24, la scossa forte del 30 e oggi è crollato definitivamente e non è mai stato messo in sicurezza. Allora, amico mio, allora, cioè non puoi... Ma ti rendi conto o no? Cioè la colpa, c'è, cioè il campanile è crollato per colpa del governo, non è stato messo in sicurezza. A parte che sarebbe gravissimo se non si fosse intervenuto, ma c'è il terremoto. Il terremoto! Ed ora Donald Trump. La zanzara. Allora, caro David, come sai io non critico mai la trasmissione della dottoressa D'Urso, Barbara D'Urso, tutt'altro, no? Cioè, poi dipende da quello che uno dice. Dipende, appunto. Senti come ha aperto la trasmissione quotidiana, la trasmissione di oggi. Si è venuto a scoprire, uno potrebbe dire, e sti cazzi, data la situazione, no? E infatti lo sì. Diciamo anche, che lei era ospite fissa di questo albergo, del famoso albergo. Mi pare sia un albergo... Dove sono sepolte vive, speriamo sì. Vive. Un sacco di persone. Senti. Oggi è un giorno particolarmente difficile per me. Io per tanti anni ho avuto un mio posto segreto, un posto magico dove mi rifugiavo quando non ero in diretta con voi, non lo sapeva nessuno. È un posto piccolo, con tanto cuore, dove ho avuto tantissimo amore. Questo posto segreto nel quale sono stata fino a alle vacanze di Natale, si chiamava Hotel Rigopiano ed è stato completamente spazzato via. Questi cazzi! Video e foto di me nell'albergo. Ma dove? Sentiamo, sentiamo. E io innanzitutto voglio farvi vedere, voglio fare vedere a casa com'era l'albergo prima e come dopo. Dentro abbiamo messo anche, perché avendo avuto io la fortuna di abitare là dentro per tanto tempo, ho anche tantissime foto, tanti video anche che ho fatto all'interno, e, appunto, che adesso vi farò vedere. Ma la cosa più incredibile, caro Parenzo, è un'altra, è un'altra. A un certo punto la D'Urso si rivolge alla una di quelle che gestisce, immagino, l'albergo, l'albergo Rigopiano, si chiama Marinella. Marinella, senti, senti, perché questa cosa è abbastanza... Cioè, va bene, sei... fai ascolti e tutto, ma sentite, sentite, vi prego, sentite. Marinella, pensa quando verrai in studio da me dopo che ti avranno salvata. Perché tanto lo so che vi salvano tutti. Pensa, Marinella. E anche Roberto. Anche Roberto. Mi fate vedere la foto? Ora, perché deve andare in studio dopo essersi salvata? Questo è il punto fondamentale. Sì, no, ma può dire tranquillamente... pensa quando ci sentiremo, pensa quando ci sentiremo, e una volta che ti sarai salvata, che in studio, cioè, pensa quando verrai da me in studio, è meraviglioso. Cioè, lo studio diventa il centro del mondo. Sì, perché è una sua protesi sostanzialmente, lo studio, cioè è una continuazione di sé, è come direbbe Freccero, in qualche modo, in qualche modo è proprio, no, una metempsico, la televisione. Giovanni da Bologna, vai, Giovanni, Giovanni. Pronto? La tirata l'hai fatta. No, Giovanni da Bologna. Sì, sì, sì. Così c'è. Giovanni, sono... No, no, non ti voglio dire, Giovanni da Bologna. Questo è il catarro. Io volevo dire qualcosa sulle ragoste, visto che le avete tirate in ballo. Giovanni da Bologna sulle ragoste. Visto che le avete tirate in ballo, bisogna parlare. Vabbè. È una cavolata, nel senso che come i maiali, come i cani, finché sono vive vanno tenute decentemente. Sì. Morte potete fare, congelatele, fate quel cazzo che ci pare, ma vive è uno schifo, secondo me. Cosa è uno schifo, scusa? Cosa è uno schifo? Sì, tenerle schifo, sul ghiaccio e con le chele legate è uno schifo? È uno schifo, è una barbarie, amico mio? Sì, è una barbaria, secondo me, perché sono vive. Allora, Giovanni da Bologna ci comunica che è una barbarie quello che sempre si fa in tutti i ristoranti, cioè se uno va, per esempio, da un Chinese, vede sempre quelle simpaticissime aragoste o astici, poggiate sul ghiaccio, perché altrimenti deperiscono, e con le chele legate, che avrà anche un significato, se non mi ricordo qual è, diciamo, l'utilità di questa cosa. Posso dire, mandano a vicenda. Sì, amico mio, ma io posso dire che io, nonostante gli studi scientifici sull'anima dell'aragosta, me ne sbatto i coglioni. Eccolo là. Lo posso dire o no? E bisognerebbe sbattersene i coglioni dell'anima delle aragoste, perché io non ci credo, anche se soffrissero un po', non c'è altro modo. Qual è il modo? Qual è il punto? Bisognerebbe tenerlo al caldo. No, e i polipi? E i polipi quando li cacciamo, quando li prendiamo, allora cosa dobbiamo fare con i polpi? Perché non ci interessiamo anche ai polpi? Sì, anche o i polpi? È vero, perché? Sì. Perché? È una questione di dignità, secondo me. La dignità delle aragoste non ce la posso fare, ragazzi. Perché allora i maiali devono essere tenuti in maniera dignitosa e le aragoste no? Ma non è questione di maniera dignitosa. Beh, anche questo è un argomento. Sì, però, per carità, ma va benissimo. Contro gli aragoste. E al prosciutto di Parma fanno le multe se i maiali sono tenuti male e le aragoste invece le possiamo tenere. Ma no, ma le aragoste non so, cioè non è che le teniamo lì, le torturiamo. Sono sul ghiaccio prima di essere buttate dentro la padella, o di essere forse buttate dentro il forno, o di essere cotte. Però forse metterle in un posto più comodo non costa niente. Ad esempio, se tu no, però non si credo. Parte così, David, si parte così e poi si va metterle in un posto e poi più si comodo. Dice no, non bisogna cucinare più pesce, non bisogna più mangiare carne. Questo per carità, questo. Dai, su, Davide da Parma, vai, Davide. Davide, dimmi, Davide, dimmi. Buonasera. Dimmi. Senta, io volevo fare una domanda al signor Parenzo. Eccoci qua, non lo faccio uscire fuori dalla porta, premesso questo. Vai. Allora, signor Parenzo, io le voglio fare questa domanda. Sì. Noi in Italia ospitiamo questi gentili signori che vengono da fuori. Da fuori, d'accordo. Da fuori. siccome li ospitiamo, li paghiamo, hanno hotel, tutti i comfort che io parlo tutti di famiglia, comfort hanno, ho capito, hanno comfort tutti comfort hanno? Che comfort hanno? Allora, hanno 37 o 40 euro al giorno. Beh, non loro, vai. Non loro, non gli danno a va loro bene, 37 poi, euro. Poi? Prima stupidaggine, allora, adesso le scrivo. Prima Parenzo, stupidaggine. Chiedo scusa a lei, lei ha detto una sciocchezza. Poi, non si danno 35 euro agli immigrati direttamente. Ammesso e non concesso che abbia detto una stronzata. Ecco, bravissimo, mega galattica. Come si mantengono questi signori in Italia? Beh, in questo modo cosa vuol dire come si mantengono? Come si mantengono? Che vuol dire? Ma quali sarebbero i comfort? I comfort quali sarebbero? Beh, hotel poi? Hotel. Magari anche hotel. Dove sto io? C'è una villa dove ce ne stanno una quarantina. Bella questa villa, una villa lussuosissima sarà. Ma io penso che questa è tipo casa e famiglia. Poi che c'è? Wi-Fi, telefonini? Io li vedo sempre con queste tablet. Cuffie che... E che devono fare tutto il giorno? Tablet, iPhone... iPhone... Non scarpe sapere. Da 700 euro, che ne so? Cioè, scarpe no, di... con i bei giubbotti... Bellissimi, io pure li vedo sempre belli questi giubbotti. Di grande lusso, di grande... di marca, eccetera, eccetera. Fermo lì! Giuseppe, continua così. La maggioranza silenziosa dei napoletani è con te. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. La Zanzara non si commenta, o si ascolta o non si ascolta, ma non si commenta. Beh, no, si può anche commentare, non esageriamo, Si può anche commentare, non esageriamo. Oh, in qualche trasmissione, Parenzo, hanno ascoltato il nostro amico Salvatore Caltagirone, quello che prende 2.000 euro netti di vitalizio, 3.100 lordi, per aver fatto solo qualche settimana, 5 sedute in tutto, alla Regione Sicilia. Cioè, questi sono i veri scandali che andrebbero sradicati, e anche con una certa solerzia, anche con una certa forza, caro Parenzo, anche con decisione. Invece nessuno se ne occupa, capito? Nessuno. Sono se d'accordo ne occupa. Con lei al 99%. Allora, questo signore, che non è colpevole di nulla, naturalmente, è solo che fanno irritare alcune risposte che dà. Devo dirti la verità, qualcuno dovrebbe dire: sono un privilegiato, se volete sono qui, toglietemi tutto. No, ho fatto come gli altri, faccio come gli altri. E no, amico mio, non è che perché lo fanno tutti gli altri allora va bene. Comunque, che è la trasmissione quinta colonna, vabbè, è uguale, dai, dalla vostra parte. 2.000 euro, non so vuole che siano con il costo della vita di oggi. Cosa vuole che siano 2.000 euro col costo della vita di oggi? C'è uno che dice così, cosa... Perché la paraculaggine è questa di questo signore qua, cioè prenderebbe 800-900 euro di pensione, che comunque rispetto alla media degli italiani non è una brutta pensione, no? No, rispetto certo. Alla media sto dicendo, noi avremo pensioni forse più alte, lo dico subito, più alte di questo signore. 800-900 euro prenderebbe come medico, se non sbaglio, questo signore, e naturalmente per 5 sedute al Parlamento regionale siciliano ne prende 2.000 lordi, 3.100, 2.000 netti, 3.100 lordi. Ovviamente deve scegliere tra le due, almeno questo. Non lo sapevo, pensavo ci fosse il cumulo, io, pensa. Mm. E naturalmente sceglie quella da 3.000, non quella da 800. Vabbè, 900. Questo sennò sarebbe stupido. Ho governato io l'Italia in questo paese, ho ridotto io la gente a stare a vivere male. Non ho ridotto io l'Italia così. Ma sì, non sei stato il principale, però non ti sei nemmeno opposto a questa barbarie. Non abbiamo sentito la tua voce levarsi. levarsi forte contro la barbarie dei vitalizi, contro la barbarie dello spreco. Non perché l'abbiamo avrebbe, sentita questa avrebbe voce. Dovuto dal suo punto di vista. Ah, va bene, allora facciamo come cazzo ci pare. Ma no, ma adesso prendersela con il singolo. Ma non me la piglio, dice... l'ho già detto all'inizio, non me la piglio, dai. Però mi fanno irritare alcune risposte, sì, fanno irritare tutti alcune, certo, risposte. 2000 euro netti cosa vuole che sia? Noi ha detto pure che manteneva i figli, eccetera. Questo può essere quello, con quello che fa con questi soldi chi se ne frega. Senti, senti sulla rinuncia, senti sulla rinuncia vitalizia. Vuole lei che io, rinunziando a sti miserabili 2000 euro netti al mese, metterei a posto i conti pubblici italiani? Va bene ragazzi, tornando a terremoto, neve eccetera eccetera, la tragedia abruzzese che stiamo vivendo live, caro Parenzo. Una tale Valentina Picone, che pare lavori al 118 di Papare, pare al 118 di Palermo, su Facebook, quella grande finestra che è Facebook, cioè non è un posto putrido come dicono tutti. In realtà dipende, come tutti la, i luoghi può come essere la Zanzara, mal frequentato. È come la Zanzara, una grande colonscopia succede là. Ecco, sì, certo. Cioè una grande mostra tutto, anche gli istinti peggiori che ogni tanto escono fuori. Insomma, questa tale Valentina Picone, cui viene dato risalto in queste ultime ore appunto nel web, scrive: peccato che non ci fossero immigrati dentro l'albergo, ecco, lì dentro. Capito? Così ha scritto questo. Peccato che non ci fossero immigrati lì ma dentro. Ma qualcuno pagherà? Cioè quando uno scrive una fregnaccia, non bisogna. Ma bisogna pagare, bisogna. Che cosa? Ma che, deve, che dovrebbe quando pagare? Quando uno scrive una cosa dovrebbe pagare? Un abominio simile. E cosa dovrebbero fare? Impiccarla? Cosa dovrebbero fare? No, ma è semplicemente una cretina, punto e basta. In democrazia succede che esistono, cioè uno deve pagare per quel che dice, perché altrimenti... Senti queste altre cose. Allora, in un gruppo che si chiama... sempre se tutte queste cose sono vere eccetera, evangelici, testimoni di Geova eccetera, c'è un tizio che si chiama Davide, il quale dice: dicono di no, ci chiamano bigotti, la verità è solo una, tutto questo sta succedendo, cioè i terremoti, la neve, la gente che muore, sta succedendo da quando abbiamo permesso le unioni civili. Ah, ho capito. Signor Davide Amirante, fermatelo. Un'altra: da quando hanno permesso le unioni civili la terra ha iniziato a tremare, non si è più fermata. Sì. Un'altra: i peccati sono arrivati in cielo, hanno esagerato, ora basta. Vieni, Signore Gesù! Hanno profanato il tempio di Dio Santo, ravvedetevi e lasciate le vostre vie malvagie. Sì, ragazzi, dice un'altra, una tale Gerardina, le unioni civili sono state la ciliegina sulla torta e il Dio buono fa piovere sui giusti e gli ingiusti. Aggiunge un'altra signorina che si chiama Nina. Ma cos'è questo florileggio? I segni sono tanti. Gesù è alle porte. Sì, vabbè, questo. No, non è alle porte Gesù, è alle porte l'ambulanza. Ecco, è alle quella porte, quella è sicuramente. È alle porte il reparto speciale di psichiatria. Magari. Umberto, provincia di Imperia, andiamo, dai. Sì, buonasera. Sanremo, esattamente. Sanremo, Non commentare la Zanzara, ma commentare quello che dice lei. Io sono indignato puoi irritare chi ti... puoi commentare quello che ti pare, dimmi. Allora, volevo dire, sono rimasto veramente indignato dalla sua risposta a quel signore prima dell'interruzione del giornale radio riguardo le aragoste in particolare e in generale che cosa animali. Avrei detto di così scandaloso, scusami. Guardi, lei in generale sugli animali fornisce un esempio fortemente diseducativo. E mi stupisco, c'è anche una bambina piccolina, non credo. Come si fa a dire che è normale una povera bestia tenerla viva su un letto di ghiaccio? Perché non si mette lei con le palle, bello nudo con le palle? Beh, potrebbe essere un letto di ghiaccio. Non gli dia consigli di questo signore che potrebbe seguire. Ma perché ho specificato Sanremo? Perché noi a Sanremo abbiamo, io ho contribuito perché sono stato in comune, abbiamo un regolamento per il benessere degli animali. Dove si vieta ai ristoranti, essendo un posto di mare, lei capisce bene che ce n'è pieno, di esporre queste povere bestie vive su un letto di ghiaccio. Dove non si è, devono non mettere? È tanto la particolarità delle, ma dove si devono mettere le aragostine? Mi spiega, io non le mangio neanche. Fallo sfogare, aspetta, fallo sfogare. Ma voglio capire dove si devono mettere le aragoste, non ho capito dove però. Cosa? In un letto di lattuga, dove devono camminare le aragostine? Ma non vive sul ci sono gli acquari, dove io le voglio vedere vive, io le voglio vedere vive sul ghiaccio con le chele, sì, lei, con le chele legate, lei, e me ne sbatto i coglioni. Lei è un nichilista, ho il diritto di, tu hai il diritto di dire di fare le battaglie per le aragoste, portarle in Cassazione, impegnare la giustizia italiana, mobilitare una discussione nazionale sulle aragoste, sì aragoste no, diffonde un messaggio diseducativo al 100%. E vabbè, sarò condannato, sarò condannato. Ma in genere per il mondo, verso la storia che è verso gli animali, verso e gli mi animali. Stupisco Beh. Di questo, c'è una bambina che è piccolina e veramente saranno cazzi lei, miei, lei è di, no sono cazzi di sua figlia, e lei è veramente diseducativa, ripeto, sono cazzi miei, e l'educazione che do a mia figlia non ti interessa, poi se vuoi interessarti ma anche di questo, la sua figlia poverina, perché se sale poverina, se mia figlia, su, sì, mia figlia cresce, è poverina, se cresce con un padre nichilista come lei, veramente, guarda, questo è un povero cretino, giudica il rapporto tra me e mia figlia, ma qui si consente tutto, questa è una trasmissione aperta a tutto, mia figlia poverina, perché ha un padre così, questo è un poveraccio, che lei ha dentro di sé, io spero di no che lo faccia. Ma perché non fa un appello? Scusi, mia figlia è ancora minore. Perché non fa un appello agli assistenti sociali? Scusa, perché non fai? No, assolutamente no. Che lei non creda, no, ci credo. Creda veramente a quello che dice. Ci credo, ma perché non fai un appello agli assistenti sociali? Scusa, dato che mia figlia è in condizioni così di. Ascolta quello che sto dicendo invece di essere sordo. Tu, questa le pigna in testa. Richiamatelo, Alessio da Padova. Alessio, ciao, buonasera. Dimmi. Volevo parlare con Al-Baghdadi, se possibile. Nuovo. Questa non è male. Al-Baghdadi, sì, questa è una buona battuta. Bravo, carino, divertente. Possiamo introdurre le risate di sottofondo, quelle finte? Sai quelle che c'è nelle serie americane? Tu per far ridere le persone. No, mettiamo le risate, quelle finte. Quando ci sono delle battute belle come questa, mettiamo delle risate finte. Finte. Ma la gente ride lo stesso. Prego, Alessio. Lasciarti parlare un minuto e tu guarda la gente, la fai ridere o gli fai girare le palle. Meglio farle ridere. Che vai, allora, no, che volevi dire? Caso chiedo, siccome ho perso un pezzo, no, solo all'inizio, ha perso di tanti cosa pezzi. Ha detto lei. La persona, si lascia parlare le persone. Sì, ma per carità, Alessio, andiamo avanti. C'è molta tensione. Sento molta tensione. Molta tensione perché ogni volta che uno parla, interrompe, offende, rompi i coglioni. No, offende mai, Alessio, figuriamoci. Procura, certo, sicuramente. Uno staff di avvocati. C'è l'avvocato, non ti costa un pieno di avvocati? Beh, quello certo. Tu sei pieno di avvocati, ma sono il padre avvocato. Il padre, ma non solo. Siamo pieni, uno staff legale. Denunciami. Ma no, ancora. Scusa, no, poverino, poi è incapace di intendere di volere, non sarebbe processabile. Posso parlare? Però non vai al sodo pure tu. Perché si nervosisce? Ma perché si nervosisce? Quello di così strano, sì. Lo cascio lì, no? Davvero preso per il culo, la scenata che prendi, lasci lo studio, torni. Vado via. Non vuoi sentire Salvini? No, non posso telefona. Sentirlo più. Non quando posso più sentirlo. Non posso sentirlo. Non posso sentirlo. Ah, non puoi sentirlo, vediamo la prossima volta se non posso sentire stupidaggini da oggi, non ne posso più sentire, finito, chiuso Locascio, lo dico in vuoi dire al signor Locascio qualcosa, signor Locascio? No, io sono d'accordo con Locascio, certo, ma per forza si annusano a vicenda, si annusano a vicenda, signor Locascio, fermo lì, quando inviterà Salvini avrai i coglioni per dire a Salvini quello che dici quando non è in diretta. Alessio mio, ma perché hai telefonato? Alessio, no, Alessio caro, perché fermi. Sì, ha fatto benissimo, fermi. Certamente ha alimentato il carrozzone, ottimo. Fermi tutto. Comunque volevo dirvi che in verità anche a me fa cagare fare l'operaio. Cioè io sono architetto, però oggettivamente se ci devo pensare, fare l'operaio fa schifo anche a... Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. La Zanzara. Beh, ragazzi, Parenzo, sei un comunistello del cazzo, guarda, sei un grande comunque. Nonostante sei un comunistello del cazzo, sei veramente un grande, no? Sinceramente, sei il top. Sei veramente il comunistello top, dai, sei un grande, grande, grande, grande, grande, grande. Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, caro Davide, è proprio vero, è successo. A proposito di comunisti, stavo ascoltando una cosa straordinaria che mi era sfuggita ieri. Cosa, questa bella cosa? Intervista a Tony Negri alla Gabbia. Bellissima, visto? Ma Tony chi Negri, se ne frega? Professor Tony Negri. I coglioni di Tony Negri. Ma no? Ci sono delle rivolte. Ma chi se ne frega? Nel mondo! Sì, le rivolte. Le rivolte! Mondo, sì. Contro il fino a poco tempo fa. Col vitalizio. Contro il capitale. Il rivoluzionario col vitalizio fino a pochi mesi fa. Le rivolte, come dice la parola. Ti piace come dice la parola? No, invece c'è una notizia di un albanese, ho letto da qualche parte. No, quello merita un approfondimento a parte, ragazzi. Cioè, dimmi, un ragazzo albanese arrivato in Italia da clandestino, ovviamente, poverino, sì, perché era arrivato qui 91, con i barconi, sì. Certo, ed è diventato uno dei più grandi imprenditori, ragazzi miei. Cioè, la storia di la Lega cosa ha prodotto? Il piccolo bambino albanese che è diventato nel corso di pochi anni da clandestino, arrivato con quelle famose barche, quelle raccontate dal grande Gianni Amelio, quella grande speranza che dall'Albania partiva verso il nuovo mondo, verso l'Italia, la ricca Italia, è diventato non un clandestino, non un ladro, non uno stupratore, come spesso dicono questi miserabili che chiamano qui all'800-24-00, ma è diventato il re dei call center, un signore che dà 20 lavoro milioni di euro l'anno, 20 milioni, bravo, 20 di fatturato, milioni sì. Di fatturato. Ma questo che vuol dire? Scusa, il futuro è questo. Tu vuoi dire che un leghista così non c'è? Un leghista così non esiste. Io leghista non ho visto. Io ho visto un signore che si chiama Salvini, che gira con delle magliette. Quando va nei posti, forse perché si dimentica i posti dove va, allora va a Milano e ha la maglietta a Milano. Dice, cazzo, sei a Milano, ovvio, perché devi avere la maglietta? No, tu dici, non esiste un leghista che non esiste. No, il Trota, l'unico che è andato lì a provare a laurearsi lì in Albania. L'emigrazione al contrario. Quell'emigrazione al contrario, esatto, la famosa non fuga dei cervelli in quel caso. Quella va incentivata, quella roba lì, ad esempio. Quella cosa lì va incentivata. Ma quelli che arrivano, io non ho mai visto un leghista che dà lavoro. Uno di questi, un leghista che, no, l'hai visto tu, lo conosci, che fa fatturato, che crea ricchezza, che crea posti di lavoro. Ci saranno. Io non li ho visti ancora oggi. Se me ne porti uno, sono pronto a ricredermi. Non ho visto uno allora, di questi. Allora, ma torniamo alla mitologica professoressa De Mari. La professoressa De Mari, da noi scoperta, in realtà era abbastanza nota, perché scrive dei romanzi di fantasy, pare molto venduti. È psicoterapeuta, medico. Medico, poi adesso vi dico quali sono le novità, ma facciamo un punto. Che punto vuoi fare? Un riassunto. Mi vuoi far risentire? No, perché ancora? è arrivata la notizia che l'ordine dei medici ottimo ha aperto un procedimento ottimo per una possibile espulsione e una sanzione. Vabbè, da dare a questa signora che dunque non potrebbe più fare il medico semplicemente per le sue idee. No, per ma le scusa, sue idee. C'è un posto dove lei può farlo tranquillamente. Dov'è? È vicino a Roma, peraltro, si chiama Città del Vaticano. Ah, è nel dovrebbe centro trasferirsi di Roma a fare il medico alla Città del Vaticano. Ma benissimo, lì quello è uno stato teocratico. Comunque, quello lì, dove sicuramente le sue idee saranno ben accette. Sarà un ottimo medico. Riassunto delle precedenti medico puntate. Il Vaticano, bellissimo. Lei come considera la condizione dell'omosessuale? Una condizione una tragica? Una condizione difficilissima. Drammatica, tragica. Purtroppo drammatica per la situazione anorettale, in particolare quella maschile. Cioè dell'ano? Esatto. La cavità anale è stata creata perché passino le feci dall'interno verso l'esterno e basta. Sì, d'accordo. Dunque non è prevista la penetrazione del pene. Ma non è vero, quindi non l'ho detto. La mucosa è sottilissima, viene facilmente lacerata. Sì. Sotto ci sono dei vasi sanguigni venosi, sì, cosiddetti vasi emorroidali, sì, purtroppo estremamente fragili, sì, che già di loro tendono a fare casino. Se sì poi uno li sottopone al trauma, sì, fanno molto di più, aumentano le emorroidi. Sì. Il tutto può portare a fistole, all'accesso sì perianale, all'accesso anale, sì, e alle ragadi. La conclusione dei danni qual è? Quali ulteriori danni? La conclusione si arriva al fatto che non ci sono linfatici, quindi tutte le patologie vengono moltiplicate per 20. Beh, ma c'è anche la libertà di farlo, però. Eh certo. Ma mica lo voglio vietare. Ma voglio no, ma anche la natura, qualcuno gente lo fa in modo naturale. Per qualcuno aspetta, è naturale farlo, è naturale, basta, è natura. È naturale, avvertirlo arriverai all'incontinenza anale. Per me è naturale avvertirlo, stai moltiplicando il tuo rischio di avere il cancro dell'ano. E dopo il cancro dell'ano disse pure che la pratica di sesso anale è un rito di iniziazione satanica. È un gesto che viene sempre fatto. Ah, sottomissione. Sì, esatto. Nelle iniziazioni sataniche. Come? È un scusa punto fondamentale. No, scusa. Aspetta, no, questo è fondamentale. No, io aspetto. Sì, signori. Allora, caro Parenzo, la dottoressa ha affermato oggi che i gay per lei sono i nuovi ariani. Sono la nuova razza ariana. Vietato parlare di loro, vietato criticare, vietato esprimere la propria opinione. Che paragone vergognoso. Nei loro confronti. Loro vogliono l'omologazione, il pensiero unico. Adesso forse sarà sbagliata l'espressione nuovi ariani. Beh, direi. Il riferimento al nazismo non c'entra assolutamente nulla, naturalmente. Ma questo sarebbe un medico anche. Ma che vuol dire? Un psicologo. Ma l'iniziativa di molte associazioni gay che mi fanno più paura della De Mari, perché in fondo la De Mari è assolutamente innocua. È totalmente innocua. Totalmente innocua. Ma insomma, le sue posizioni non mi paiono innocue. Che cosa provocano? Omofobia? Omofobia e disinformazione. Odio, ma quando mai? Provocano omofobia e disinformazione. Che c'entra? Ma cosa vuol dire la disinformazione? Cioè, non vuol dire fa niente. Passare gli omosessuali per delle persone malate. Ma cosa vuol dire? Ma saranno affari suoi. Uno la critica, ma non la puoi cacciare dall'ordine dei medici. È una cosa illiberale. No, è una cosa illiberale. Ma io non voglio cacciare nessuno. Detto che eri a favore, oggi no. Non voglio cacciare nessuno. Dico semplicemente che lei può esercitare la professione del medico in uno stato che è piccolino. Praticamente la vuoi cacciare via. No, per carità, la vuoi cacciare. È a Borgo Pio, meraviglioso. D'accordo. Ma lei puoi uscire tutti i giorni, andare a pranzo dove vuole, venire anche nella zona Prati, può andare ai Parioli. Quanto ci mette dal Vaticano ai Parioli? Ci mette un quarto d'ora, 20 minuti con la macchina, esce dal Vaticano, poi quando deve lavorare torna in Vaticano, fa lì, parla delle sue cose in Vaticano. Questo... ogni tanto queste associazioni che vogliono addirittura, alcuna di queste vuole addirittura portare la De Mari in tribunale perché secondo lei dovrebbe pagare qualcosa per tutti quelli che si sono sentiti offesi o per quelli che possono avere delle ripercussioni, non so, a suicidarsi o non so che cosa, ma figuriamoci se uno si suicida per le parole della De Mari. Ragazzi, non diciamo cazzate. No, però questa qua uno... fa il medico, i suoi pazienti giudicheranno se è un buon medico o no. Non rompetele i coglioni, punto e basta. Non rompetele i coglioni. Io non condivido mezza parola di quello che ha detto la De Mari, ma non rompetele i coglioni, punto. Carlo dalla provincia di Fermo, andiamo con gli ascoltatori, vai Carlo. Ciao Sab, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dai, chi sei? Locascio, c'hai la voce, allora, sembri Locascio. Sì, bravo, bravissimo, proprio in quell'argomento. Io lo conosco abbastanza. Ma anch'io bene. Lo conosco, signor Locascio. Ecco, e perché Parenzo dice questa è una persona che non è credibile? Ma non è vero per niente, è una persona semplicemente eccezionale. Io lo conosco, è un comico. Noi qui ne abbiamo due, uno molto vicino a me e l'altro lo caccio un po' più lontano, però è un comico, però dice le cose giuste. Parenzo, perché hai detto che questa persona non è, insomma, non mi ricordo le parole esatte, perché no, ha detto che è un imbecille, ha detto una assoluta minchiata, in quanto come tanti altri fa una disinformazione assoluta tra i fondi che arrivano destinati ai terremotati, alle persone che hanno subito delle calamità naturali, rispetto ad esempio al tema dei migranti. Allora Locascio sarà un bravissimo comico, ma quando si mette a ragionare di queste cose dice delle bugie, ha detto che ci sono 28 milioni di euro bloccati, balle, e questo è vero, delle balle. Poi se ne col governo, ma cosa vuol dire? Cosa c'entra il governo? Adesso, la Corte dei Conti che sta facendo le verifiche. Pronto? Cosa c'entra il governo? Se mi lasci un attimo, ma sì, per carità, va benissimo. Dimmi una cosa. Dimmi. Posso? Sì, se Locascio vuole intervenire, può intervenire. Chiami, ma quando vuole, certamente. Ci ascolta sempre, signor Locascio. Sì, Antonio Locascio. Lo aspettiamo Locascio, come fosse di Serra Pedrona, dovrebbe. Senti. Ti voglio dire una cosa, io faccio parte di un gruppo folcloristico qui nel Gioia e andiamo a cantare per i terremotati. Allora, mi pare un'ottima iniziativa. Però, scusami. No, adesso te lo dico subito, che è quello che vi frega. Noi cerchiamo di fare delle cose giuste nel nostro piccolo. Vabbè, allora? Quando abbiamo mandato questi SMS... è detto proprio che alla fine gli vanno. Se Locascio ha fatto questa affermazione, io non so fino a che punto ha sbagliato a parlare. Vabbè, credo. Ciao, Vittorio da Milano, dai Vittorio. Dimmi. Pronto, buonasera, ciao David, devo parlare con te. Senti, tu un paio di anni fa, ciao, con scuola mia, a parlare di libertà di pensiero e libertà di parola. Quale scuola era, scusami? Sì, può essere, sicuramente. Vabbè, dai, non andiamo a specificare, vai, no, dimmi. No, può essere, sicuramente. No, devo dire, semplicemente, scusate ma sento un attimo il rimbombo. Volevo dire semplicemente, David, tu non puoi dire a questa persona, non può avere il diritto di dire quello che pensa. E chi ha mai detto che non ha il diritto di dire queste cose? Cioè, secondo lei, secondo lui invece va sanzionata perché è una cosa simile al razzismo. Cioè, no, ho detto io, no, c'è il diritto di parola. Allora, c'è il diritto di essere omofobi. Il diritto di essere omofobi. Io non penso questo. Chiariamo un principio. La libertà di parola, il diritto di parola che è garantito dalla Costituzione, beh, non solo dalla Costituzione, voglio dire, in tutti i paesi civili è così, però ha soltanto un limite, che è quello dell'insulto, dell'offesa, quello, dell'ingiuria, della discriminazione. No, non c'è il diritto a discriminare, non esiste un diritto, perché non è un diritto discriminare e offendere. Questo è il punto, quindi non c'è da quello il diritto di parola. Secondo me invece è meglio che queste persone dicano queste stronzate, in modo tale che ci sono persone come te che dicono: guarda, stai dicendo una stronzata. Vabbè, ciao, sì, ciao, ma non, ciao. Non è ciao, questo ciao, il punto. Ciao, ciao. Allora, a proposito di Aragoste, caro David, io chiamerei il proprietario del ristorante che è stato sanzionato. Non scordiamoci che in tutta questa vicenda il proprietario di un ristorante che credo si chiami Don Quixote, non so, eccetera, che è a Campi Bisenzio, vicino Firenze, dove è stato multato con 5.000 euro. Cioè, alla fine di tutto questo, uno per avere messo delle aragoste sul ghiaccio, mi fa impazzire questa cosa, mi fa diventare matto, per avere messo delle aragoste sul ghiaccio con le zampe là, come cazzo si chiamano, legate, le chele legate, 5.000 euro. Non ci siete campi, buonasera. Ma come l'avete presa sta storia della sentenza voi? Scusi? La storia della sentenza delle aragoste, come l'avete presa? Ma io non ne so nulla. Aspetti un secondo. Pronto? Oh, buonasera. Salve, ecco. Buonasera. Come andiamo? Mi chiamo Cruciani, Radio 24. Ciao Cruciani, ciao. Allora, come va? Tutto bene. Marco sei, vero? No, Giuseppe. Giuseppe Cruciani. Giuseppe. Esiste Marco Cruciani? No, Marco, sì, probabilmente. Ma perché esiste? Io non la conosco, probabilmente ma esisterà. Chi se ne frega, ma sicuramente. Bene, ho capito. Va bene, passiamo, torniamo a noi. Che volevi. No, ti volevo dire, ma come l'hai presa sta storia della sentenza delle aragoste? Delle... 5.000 euro. 5.000 euro di multa, una follia. No, oltre alla follia, siamo oltre alla follia. Appunto, ma io figurati, ti difendo a spada tratta, amico mio. Cioè, ma come le tenevi ste aragoste? Queste che erano astici. Come li vendono li tenevamo noi. Come li vendono? Noi li compriamo e ce li consegnano in un determinato modo e noi in quel modo li tenevamo. C'erano arrivati e hanno detto che noi dovevamo cambiare l'adozione degli astici, cioè fino a quel punto stavano bene, dal momento in cui entravano in casa nostra dovevamo cambiare atteggiamento, liberarle, tenerle al caldo, cioè no, delle cose. Dunque a te te le davano nel ghiaccio e con le tele legate, giusto? Con le chele legate, scusami. Me li consegnavano. Te le consegnavano? Le case e nei cartoni di ghiaccio, va bene? E tu le lasciavi così? Le mettevi in frigo? Li mettevo in esposizione in vetrina. Sì. Abbiamo una vetrina del pesce, li adagiavamo su questo ghiaccio, no? Sì. Dove avevamo avuto questo tipo di contestazione. E chi è che ti è venuto a rompere i coglioni innanzitutto? Mamma mia, erano la protezione degli animali. Sì, la LAB, i signori della LAB. Bravo. Gente in divisa, ma sono i carabinieri, i vigili. Mamma mia. Sono venuti, erano quattro, io pensavo che a tutti, invece volevano gli astici. Ma ti rendi conto com'è ridotta l'Italia? No, ma voglio dire, questa la Cassazione si è impegnata a decidere che questo signore che ci sta parlando deve pagare 5.000 euro di multa perché esibiva in vetrina degli astici con le chele legate sul ghiaccio, perché dicono che le aragoste soffrono, amico. Beh, mio, hanno freddo. Come ti chiami, amico mio? Scusa. Io sono Tony. Tony, scusami, ma soffrono secondo te le aragoste? Scusami. Ma diciamoci la verità, è un po' il gatto che si morde la coda. Cioè? Come quando vai a pescare nel lago e tiri fuori il pesce, che fai? Il pesce soffre, sì o no, secondo te? Beh sì, qualcosa soffrirà, però. È come quando vedi il coniglio, insomma, l'ammassi per mangiarlo, che fa? Soffre o non soffre? No, sono quelle cose dove loro capiscono che possono pigliarsi dei soldi e se li pigliano e basta. Ma chi dici soldi? Gli enti, perché a noi non si è avuta una sanzione, Sì, ma solo 5.000 erano? 5.000 euro di multa, 5.000 euro di multa, e in più c'è il discorso che alla prossima insomma ci sarà il penale. E adesso dove le tieni le cose? Dove ecco le tieni? Appunto, le... questo è interessante. Le Aragosta, nel cartone sleganti, con le tele slegate. Ma scusa, nel cartone in frigorifero. Non puoi portarle ogni tanto a fare una passeggiata? Le metti un guinzaglio a queste? Un guinzaglio, perché sennò si piglia la multa. Ma come li consideri questi animalisti te? Cioè questi signori che fanno un casino perché dicono che le aragoste e gli astici soffrono? Credo che questi abbiano trovato un impiego, un lavoro. Presumo che questo per loro è un lavoro. Hanno capito come impiegare il loro tempo. Certo, presumo, in testa, come li consideri di testa? Cioè queste persone qua che si occupano della sofferenza degli astici. Lasciamo fare aggettivi. Io non ne conosco solo dispregiativi, non li voglio usare però. Cioè che dei rincoglioniti, signori. Come sono questi qua? Cioè come li consideri? Un pochino peggio di rincoglioniti, dico la verità, perché c'è la malafede in loro, capito? Quindi cioè non amano gli animali, dici? Non amano? No, non... questi non gliene frega nulla, fidati di me, non gliene frega nulla, cioè loro devono rompere i coglioni alle persone che lavorano, punto e basta. Bravo. Ma qui bisognerebbe fare una grande battaglia per la liberazione per gli astici, no, per la liberazione come degli astici. No, al contrario, no, liberazione degli astici. Cioè per tenere gli astici come uno vuole. Alla fine questi qua, questi astici, queste devono morire, queste aragoste. Sì. Ma come si fa a pensare che soffrono perché dice sono in grado di provare dolore e di avere memoria, dicono questi qua, ragazzi. Beh. Provare dolore, l'astice, dai su, ma non si può. Ma non si può, è una roba da ridere, dai. Però voglio dire, bravo. Quando lei prende il suo astice vivo e lo butta in quella pentola bollente, no? Perché così si fa purtroppo, no? Cioè, loro muoiono, ma è terribile la morte degli astici, è una morte terribile, cruenta, durissima. Quando lei le prende e sta per mollarli nella pentola bollente, ha un minimo di remora, di... Aspetta credo. Un attimo, ma non lo so. Ascolta, io credo che poi questi sono animali che non hanno una memoria che gli possa permettere di capire se soffrono o meno. È la natura, è normale, è la storia del mondo. I primitivi acchiappavano gli animali, li sgozzavano e li mangiavano. Cioè ora loro vogliono farci capire che c'è un sistema per ammazzare o non ammazzare, ma di che si sta parlando? Vabbè. Ciao. Amico mio, ciao. Ciao, grazie per aver chiamato, ciao. È gente che lavora, che si fa un mazzo così, Tony del Don Chisciotte, non gente che non fa un cazzo e pensa ad andare in Cassazione e che si preoccupa delle chele, delle aragoste e dei sentimenti delle aragoste. Io mi sono rotto i coglioni di queste persone qui, i liberali non vogliono manco parlare, tra l'altro, non amano nemmeno il confronto, perché messi di fronte alle loro miserie, perché di questo si tratta, invece di andare a rompere i coglioni con le ispezioni a un signore che lavora, che si fa un mazzo così e che vuole cucinare le aragoste, mi fanno impazzire queste cose. Patrizio da Roma, dai Patrizio, eccomi. Fra poco ci sarà un aggiornamento, aspetta un attimo, fra poco ci sarà un aggiornamento di un paio di minuti su tutto quello che succede in Abruzzo, faremo una pausa un po' più lunga, comunque restate qui, tanto lo so che molto rimane bene. Lo stesso. Patrizio, dimmi. Lei continua a sparare contro gli animalisti, sì. Questa è una sua fissazione. Allora le domande. Ma no, veramente, guarda, sono loro che si rifanno vivi, non ti preoccupare. Prima di tutto, lei lo sa che esiste una legge che prevede la non crudeltà contro gli animali? Sì, certamente, assolutamente. Oh, bravo. Tu pensi che mettere un'aragosta con le chele legate al ghiaccio e sul ghiaccio significa maltrattare gli animali? Lei mi dice qual è la sua qualificazione? No, ma dimmi, è maltrattare gli animali? È maltrattare gli animali? Ma cosa sa degli animali? Lei che cosa sa? E invece tu quando cosa ha sai? Studiato, qual è la sua qualificazione, Cruciani? La qualifica al limite, non qualificazione. Quella è la Juventus che si qualifica. Qualificazione mio nonno. Sono... Aspetta, ti richiamo. Non è un esperto di lingua. No, assolutamente no. Al contrario, però t'ho pizzicato qua, amico mio. Tu pizzica quando parlo io. E poi tranquillamente ci confrontiamo. Intanto t'ho pizzicato io. Dire una cazzata in italiano. Patrizio, aspetta che ti richiamiamo, qui ci dobbiamo interrompere. Sì. Cruciani, invece di parlare dei napoletani, fatta una doccia. Sono Enrico Ruggeri, anche questa settimana grandi storie al Falco e il Gabbiano. Occhi che non si dimenticano in un uomo che ci ha fatto ridere molto, Marty Feldman. Heidemarie Schwärmer, la donna che ha vissuto senza usare il denaro. Un grande calciatore e soprattutto un grande uomo, Roberto Baggio. la vita trasgressiva di uno dei padri o madri della disco music, Sylvester. L'epopea è la tragica fine di uno dei più grandi attori italiani, Luigi Vannucchi. Tutti i giorni alle 15.30, Il Falco e il Gabbiano, su Radio 24. Le 20. GR 24, Il Sole 24 Ore. Buonasera da Raffaella Calandra e dalla redazione. Un breve aggiornamento sulla situazione di emergenza in Abruzzo. Il buio non ferma le ricerche dei dispersi all'interno dell'hotel Rigopiano, ma col passare delle ore si riducono drammaticamente le speranze di trovare altri sopravvissuti. 30 le persone rimaste bloccate da ieri in questa trappola di neve e detriti sul Gran Sasso. E tra loro ci sono anche 4 bambini, come ha detto a Radio 24 il sindaco di Farindola, Ilario Lucchetta. I cani non rilevano più presenze, filtra tra i soccorritori. 3 i corpi già senza vita, già estratti, ma secondo la prefettura conferma soltanto di 2 vittime, non di 3 o anche di 4, come pur si è detto. Intanto la procura apre un'inchiesta per omicidio colposo, dovrà verificare se sia stato rispettato il rischio valanga e se i ritardi nei soccorsi potevano essere evitati. Da ore infatti gli ospiti dell'hotel aspettavano che uno spazzaneve li liberasse, ma gli avevano risposto che c'erano altre priorità, ha raccontato a Radio 24 il padre di una dispersa, e andrà acquisita agli atti anche la denuncia dell'amico del sopravvissuto, Giampiero Parete. Ho raccontato in prefettura che l'albergo era stato travolto, ha detto, ma non sono stato creduto. Notte di attesa dunque a Farindola, dove restano anche blackout elettrici, come pure in altre zone, ma la protezione civile attraverso la responsabile dell'ufficio emergenze Titti Postiglione fa sapere che entro stasera dovrebbe tornare l'elettricità in gran parte dell'Abruzzo e quasi completamente nelle Marche. Infine restano tante le frazioni isolate, soprattutto nel Terramano, dove solo con un elicottero sono stati soccorsi gli abitanti delle frazioni Ortolano di Campotosto. E per ora è tutto, ma ulteriori aggiornamenti sulla situazione in Abruzzo nello speciale in onda dalle 21 alle 23. Ed è tutto. La Zanzara. Stamattina in cantiere il mio capo, per prendermi per il culo, cantava: io non pago affitto, io non pago operaio. Ma si può? Allora, caro Parenzo, non so se hai letto, ma alla fine avevamo ragione noi, nella vicenda. Ti ricordi quale? Ti ricordi la vicenda dell'uomo bianco Amedeo Mancini, l'ultra di Fermo, che lo scorso 5 luglio sferrò il pugno al richiedente asilo Emmanuel nigeriano, che morì. Te lo ricordi? Certo, assolutamente. Sì. Allora, ha patteggiato 4 anni. Ma ha sferrato il pugno perché è provocato, cioè il pugno lo ha tirato perché è provocato dal nigeriano e dalla moglie ceniere, che lo hanno percosso con un cartello stradale col piedistallo in cemento, gettandolo per terra e sferrandogli al tempo stesso cazzotti e pedate, il tutto sotto gli occhi di decine di testimoni che hanno costretto la signora, la quale, mi ricordo, fu oggetto di una vera e propria processione da parte delle alte autorità dello Stato. La signora Boldrini si recò a Fermo, eccetera eccetera. Invece mentì. Cioè, era una mentitrice, in sostanza. Questi testimoni hanno costretto la vedova del nigeriano, per carità, sempre drammatica la morte di un uomo, assolutamente, ecco, sempre colpevole di avergli sferrato il pugno il signore di Fermo, per carità, anche lì. Sì, infatti è stato condannato, come aveva patteggiato. Moltissimi testimoni costrinsero la signora, a ritrattare la sua prima versione. La prima versione era: l'uomo bianco ci ha picchiati dopo averci offesi. Era una minchiata. Eppure le autorità dello Stato andarono in massa a Fermo dicendo c'è un caso di razzismo. Beh, quello magari vergogna. Per evitare, siccome casi di razzismo ce ne sono stati tanti, siccome ce ne sono stati tanti, evidentemente come per evitare ma evidentemente vergogna. Quello si fu dovrebbero fatto, vergognare, no, si dovrebbero vergognare. Avranno preso un granchio, tanto per rimanere in tema di granchi, di granchio di Aragoste, avranno preso un granchio le cosiddette autorità, ma magari all'epoca decisero, e me lo ricordo, di intervenire anche per sedare ed evitare che questa cosa diventasse testa, un conflitto etnico. No, sì, conflitto no, no, etnico, no. Assolutamente. Testa, conflitto etnico. Quante volte abbiamo dovuto registrare insofferenze nei confronti degli immigrati, parole grosse, parole dure, parole. Patrizio da Roma, Patrizio stava parlando prima sull'animalismo. Sì. Allora Cruciani, visto che lei, al di fuori delle spacconate che lei usa normalmente in radio, mi vuole spiegare, a tutti che ne sa lei se le aragoste hanno sensibilità o no? No, dove, ma semplicemente non mi interessa. Cioè, questo è il punto, non mi interessa. D'accordo, lei è un creazionista. No, sa? Non mi interessa. Lei è un cattolico. La sofferenza. No, veramente cattolico, no, perché sono ateo. Lei è un miserabile creazionista cattolico. Sì. A me della sofferenza, non degli animali, delle aragoste, non mi interessa. Posso disinteressarmi alla sofferenza delle aragoste? Posso essere disinteressato? Deve solo sapere che lei è nessuno le tortura. Nessuno. Lei è un cattolico che si spaccia. Sì. Per uomo progressista, ma chi se ne frega di queste definizioni? Ma chi se ne frega di queste definizioni? Lei ne capisce, lo sa che lei. Sì, va bene, sono un creazionista. Sì, va bene. Sì, sto negando l'evoluzionismo. Sì, va bene, d'accordo. Poi andiamo avanti. Poi andiamo avanti. Poi a tutti, abbia il coraggio. Sì, sono un creazionista cattolico. Sono un creazionista. Sì, sì. Ma perché chi è lei? Sono un creazionista. Ammettiamolo, diciamolo. Sono un creazionista cattolico. Ma cosa dici? Sei contento? Ma che ne so, chi se ne frega? È un cretino questo. No, cretino sei tu, imbecille. Ecco come degenera subito. Visto come degenera. Un attimo. Lei è la prima capra. Sì, sì, bene, poi andiamo avanti, poi. Io vorrei sapere lei che cosa ne sa. Gliel'ho chiesto 10 volte. No, ma te l'ho detto ancora una volta, te l'ho detto, la sofferenza delle aragoste mi è totalmente indifferente. Sono padrone oppure devo essere messo a rogo? Perché sono indifferente. Lei non deve essere messo a rogo. Bene, lei deve solo dimostrare a tutti chi è. Bene, infatti, invece di fare lo spaccone. Sono un creazionista cattolico. Ma cos'è creazionista? Ma cosa dici? Ma lo sa lui, ma che ne so, gli do soddisfazione. Tieni fuori i testicoli, dica chi è. No, li voglio mettere sul ghiaccio i testicoli. Dove l'ha studiato? Sul ghiaccio li voglio mettere. Paola da Roma. Niente, sono stata anticipata dal da Patrizio, sì, c'è la rivolta degli animalisti adesso. No, ma guarda, io sono un animalista, sì, no? E mangio solamente pesce, ma non mangio carne da terra. Sì. Vabbè, però, già un passo, ognuno fa quello che vuole nella vita. Poi senti, scusa Giuseppe, posso parlare un attimino con Davide? Io a te proprio non ti sopporto, ti sento solamente la sera perché te ne dico talmente tante, ma arrivo a casa tranquilla. Oh, che meraviglia. Tranquilla. Io voglio quindi ha un valore terapeutico. Esatto, Davide. Perché io con te voglio parlare, perché sono felice. Parla con Parenzo, ma fai quello che vuoi. Questa... No, no, facciamo parlare la signora un attimo, non farla. Allora, senti Davide, io quello dica, che non riesco cara. A capire, no? Allora, lui può anche non interessare la sofferenza delle aragoste, no, ma però nulla. Perché non l'ha provata? Allora, guarda, ti ripeto, io lo mangio il pesce, no? Sì. Però sì, brava, mi sembra di buon senso sta signora Paola, ottima mi sembra. Esatto, sì. Allora io sono contro però la crudeltà. Certo, tutti allora, noi per siamo, quale certo. motivo? Allora, tu te la devi mangiare questa aragosta, d'accordo, però perché farle patire quella sofferenza? Brava. Allora, Cruciani... Mi sembra molto lucida Paola, sofferenza indicibile, allora, effettivamente è scesa in campo Amnesty International. No, Amnesty... No, ma c'è tanta sofferenza in giro. Tu sai come potresti capire e partecipare come? Alla sofferenza di una nostra, stando mezz'ora con me dentro una cella frigorifera. In quel caso, mettere dentro una cella frigorifera. Signora, per quale motivo al mondo mi devo mettere dentro una cella frigorifera? Perché ha ragione, dice, ma insomma, ma se si può mettere. Per la prima volta useresti quello di cui. Cioè, la parte anatomica che c'è sempre. Sempre in tutto quello che dici, no, te la metterei bella al gelo, Giuseppe, la ritrovi. Sì, non è sbagliata come idea. La sofferenza in quel caso che la provi su di te. Beh, sicuramente stare ibernati non è bello. No, ma che invernato, quelle stanno sul ghiaccio, è un dolore tremendo. Sì, esatto. Dolore e allora, tremendo. Per quale motivo a te può non interessare la vita della ragazza? Per mantenerle fresche, perché mantiene qualcos'altro fresco? No, cioè, per mantenerle fresche. Cervello, guarda, vedi. La cosa interessante è mantenerle fresche, vive, pronte a essere buttate dentro. Ma bene, andatene. Guarda, io Paola, pronte ad essere buttate. Sì, pronte a essere gettate nell'acqua bollente. Ma va benissimo. Io penso che tu sia un maniaco. Questo muore, le aragoste nell'acqua bollente, che cuoce nell'acqua bollente. Ma lo so, ottima Paola, ma come sì, te, lo so, che lo so, lo so. Ma no, ma guarda, purtroppo cosa c'entra? Guarda, ho avuto il piacere di parlarti. Sto facendo la parte. Grazie Paola, ma vediamoci magari, perché lei, ma mi perché sembra una persona molto per bene, è la maggioranza silenziosa che ogni tanto vedi salta fuori, perché è la gente che ragiona normale. Lei dice: io non sono una fanatica, io mangio il pesce, ma giustamente, come tutte le persone normali anche di cuore, perché la signora Paola, ma fino all'altro giorno mi hai detto fino a tre minuti fa dicevi che era una follia sta storia delle aragoste, ma invece trovare una ragione, perché se l'aragosta soffre, ma lei non dice di no. Paola, è ragionevole, non è che dice non mangiamo l'aragosta, dice mangiamola, ma fino a quando deve finire in pentola facciamola vivere dignitosamente. Ma mi sembra una cosa di buon senso, l'ottima Paola, è una persona per bene. Incontriamoci, discutiamo, creiamo massa, perché questa gente qua deve essere isolata. Ma fatevi pure un animo, fatevi pure una lingua, fatevi, senti che volgarità. No, lui è così. A lui non interessa la sorte dell'aragosta, ma dovrebbe interessare quel solo neurone con sto freddo. Mettetegli il cappelletto. Mi pare una persona di buon senso la signora. Ma scusami un attimo, ma veramente la fissazione del pisello mi sembra che ce l'hai tu, Paola. Mi sembra, del tuo neurone, e poi così. No, l'ho nominato, ma mi sa che ce l'hai in testa. Parlaci con altri, io non so, non è tua sorella. Ma ce l'hai solo tu in testa, lei. Ciao, grazie signora Paola, cara. Continuiamo a lottare, a far sentire la nostra voce. I cruciani che chiamano saranno insensibili, sconfitti. Insensibili. No, ma vedi, in buon senso. Allora, Alessandro Manzoni diceva: ma vi dovete vergognare di quello che dite, tu e Paola. Alessandro Manzoni diceva: ecco, il buon senso se ne stava nascosto per paura del senso comune. Allora, in realtà, vedi che sta venendo fuori il buon senso. Sta venendo fuori questa maggioranza silenziosa che alle volte che si preoccupa delle aragoste. No, se sono magnati le aragoste per vent'anni senza rompere i coglioni, adesso cominciano a preoccuparsi delle aragoste. Ma dai Paola, chiudila qua. No ragazzi, ma io sto nel traffico, accendo la zanzara per distrarmi un po', e che cazzo sento? Il traffico. La zanzara. Ragione, dottoressa De Mari, mi è capitato più volte nella mia pratica medica, soprattutto durante la mia attività di medico di pronto soccorso, di dover eseguire la manovra dell'esplorazione rettale, e ti posso garantire che le persone penetrate da quel lato, per così dire, non hanno più la continenza dello sfintere anale, in alcuni casi in modo lieve e tutto sommato trascurabile dal punto di vista funzionale, in altri casi sicuramente in modo importante. Non è carino perdere la continenza dello sfintere anale, Giuseppe, pure tu che sei un gran maiale, me lo consenti, lo capiresti questo, per cui medita, e io, se fossi nella tua compagna, mi sottrarrei a questa pratica eseguita in termini così ripetuti quotidianamente, un tantum proprio. L'omosessualità è una malattia inculabile. Più incontinenza anale e meno De Mari. Allora, secondo te, caro David, come avranno preso i ristoratori questa storia delle aragoste? Cioè, no, questa storia, la sentenza della Cassazione. La sentenza della Cassazione, no, perché diciamo la verità, tutto fa giurisprudenza, come si dice tecnicamente. La sentenza della Cassazione che decide che sostanzialmente bisogna avere umanità nei confronti delle aragoste, sì, e sì, che si tratta di maltrattamento animale. Sì. Il fatto di mettere le aragoste sul ghiaccio, di bisogna prenderne ghiaccio atto e prendere provvedimenti, e quindi non metterle più sul ghiaccio. Devo dire, si può fare anche una grande operazione di disobbedienza civile nei confronti di questa cosa. Fare disobbedienza civile, si capisce? Sto già pensando a qualche cosa, semplice. Però fermo là. Come avranno preso i ristoratori? Abbiamo fatto qualche indagine. Il commissario Mercù è andato al lavoro. Come se la Mancuso abbia ispettato Clouseau. In un a cercare di capire se i ristoratori, in particolare quelli del sud, per esempio uno di Reggio Calabria, cosa ne pensa di questa storia delle ragoste. Senti. Sì, buonasera. Volevo chiedere un'informazione. Nel vostro ristorante servite astici e aragoste? Prenotazione, sì. Questi astici sono freschi, sono vivi? Non lo so. Lei cosa a me interessa in che condizioni li tenete, perché io sono il presidente dell'associazione Chele Libere. Su questo non la posso aiutare. Perché non mi può aiutare? Lei saprà se hanno le chele legate. Questa sera lavorerò carne. Se vuole venire ho carne. Lo sa che tenere questi animali con le chele legate è reato? Ma non può andare da dottor House. Magari. Si dovrebbe vergognare da criminali. Capisce che da criminali tenere questi animali così? Ma vuole venire? Lei magari la infiliamo dentro la vasca, vediamo che cosa fanno questi animali. Si vergogni. Sì, ma è chiaro, che lei non conosce vergogna, se fa ste cose è evidente. Ma certo. Ma magari vuole venire lei per quanto riguarda, oppure non lo so, mi dica lei o chi per lei, magari naturalmente non mi sento maschile, magari una bella donna, la bionda io me la trombo e metto l'astice sul tavolo, così mentre io mi trombo la bionda l'astice vede che cosa succede al genere umano, no? Dice ma che cazzo fanno, questi trombano e io dentro la vasca con le chele legate, dice ma quasi vorrei essere anch'io un umano per potermi trombare con la bionda. Lei ha bisogno di cure, sinceramente. Sì, ma anche lei. Ma io una cura per lei ce l'avrei, ma mi creda veramente. No, mi dica, che cura? La mia macchina oggi croce presa 3,5 tonnellate, ma io veramente sotto la mia macchina lei ci starebbe proprio a sappedino, come dire. Cosa fa, minaccia adesso? No, se lei mi chiama, mi rompi i coglioni e coglio la minaccia. Va ma bene. Io ho un piacere veramente di incontrarla. Certo. Viene? Ma certo che vengo. Ma lei, intanto sto svuotando la vasca, così ci mettiamo là dentro. Facciamo il lottatore di sumo. Anche il lottatore di sumo, quindi lei deve essere abbastanza grasso. Ma io ho problemi, quando vado in bagno non me lo trovo l'uccello. Magari viene lei con un manico di scopa e me lo tiene su. Battutaccia volgare e lei si comporta da criminale. È una cosa da criminali. Vergognosa. Ho investito stamattina, quei cani. Ma sì, queste sono le sue palle, lasci perdere. Si vergogni. Sembrava un documentario di Piero Angela, ma passavano uccelli dappertutto e io col fucile sparavo a tutti. Ma stavo sempre con la speranza che passasse lei, però non l'ho vista. Dove era nascosta? Ho 5 colpi, ma guardi, uno glielo riserverei per lei. Complimenti, vergogna! Ma non a piombo, adesso ci stanno quelli in gomma, così non mi faccio il carcere. E non lo sa, io ho l'associazione. Sì, sì, adesso lei ha l'associazione criminale, la mia, naturalmente. La mia è una no profit, non so, sicuramente la sua non è una no profit, perché per spendere soldi a minchiate a telefonate per insultare agli altri, qualcuno glieli darà questi soldi, no? Reggio Calabria, caro Parenzo. Sì, mi sembrano metodi un po', no? No, ma anche la voce del nostro ispettore Clouseau. Locascio, dove sei? Locascio, vieni qui a combattere con Parenzo. Locascio, che ti ha detto che sei un imbecille. Attaccalo, attaccalo. No, ma non proprio un imbecille. All'attacco, Locascio. Un imbecille totale, mi Franco pare. Franco da Napoli, totale, appunto. No, Franco. Ho detto non imbecille. Pronto? Mi vai, sembra Franco. Riduttivo e anche pronto? No? Ciao, sono Franco da Napoli. Bene. Senti, volevo dire, al di là del fatto che questa sentenza, quella sentenza della Cassazione che tu hai riferito e quella multa da 5.000 euro mi sembra veramente una grande cazzata, veramente. Con i problemi che ci abbiamo in Italia, non so se sia il caso di perdere tempo a queste cose. Comunque, volevo dire, ma tu, Cruciani, hai mai avuto un animale? Da sì, piccolo, gatti, cane, gatto, i gatti, qualcosa? I gatti. Anch'io ho i gatti, ma non pensi che tutti gli animali abbiano una sensibilità? Che pensi tu? Ma come non lo so, ma sì, ma non è che come fa a dire che non ti infatti frega nulla, ci sono le leggi, per carità, sul maltrattamento, ma che possa essere considerato maltrattamento di una ragosta, stiamo parlando poi, una ragosta, come si chiama, che mi hanno detto che quella l'astice, non hanno le chele, l'astice, che possa essere considerato maltrattamento di un astice quando uno lega le chele, amico mio, e sta sul ghiaccio, questo no, non ce la faccio, gli studi scientifici sulla sofferenza delle ragoste, non ce la faccio, delle astici, non ce la faccio. Ascolta un attimo, l'astice è brutto. Non è brutto, come, non è questione come, di brutto. Bello come un no, gattino. Ma è bellissimo. Ascolta. Perché è brutto? Scusa, non è che quindi, allora, denigri l'astice. Non fa avere i sentimenti di amore, di tenerezza che può fare un cucciolo di gattino. Ma non è quello il punto, ma la sofferenza. Anche l'astice è un animale. Allora, non cadere in questi... Non perdere stile nel dire che non ti frega nulla dell'astice. Non me ne frega nulla, oggettivamente non me ne frega niente. Non me ne frega niente, lo ammetto, non me ne frega. Perché non ci fai una grande figura. Massimo da Bari, fermo che fra poco ce lo caccio. Massimo da Bari, vai, Massimo. Ciao Giuseppe. Dimmi Massimo, dimmi. Senti, io purtroppo devo portare una testimonianza molto peggiore di quella degli astici, cioè tipo? Che, di cui ha preso il cicamiele. Allora, io vivo a Bari e da secoli a Bari mangiamo il polpo. Il polpo viene preso, gli viene voltata la testa, strappata l'interiora, sbattuto sulle rocce. Certo, vivo, vivo, vivo. Vivo, dopo che gli è strappato la testa, diciamo che non è proprio proprietario vivo. Quindi alla fine tutti i baresi, o quasi tutti, dovrebbero essere accusati di vilipendio di cadavere. Perché non solo, maltrattamento animale, qualsiasi cosa. Dai su, ma ragazzi, è ridicola questa cosa, dai su. La mia testimonianza. Non è ridicolo quello che fanno, fanno benissimo. È normale. Per noi è normale. Ma sì, Davide, è così, è così. Quando prendi un pesce vivo che poi rantola dentro un coso, che cosa dovresti fare? Però scusami, anche per quello ci sono delle regole, anche per quello sono delle regole precise. Ma non rompeteci i coglioni. Certo, come tu sai, non so se tu sei mai stato un pescatore, io sono andato a pesca con alcuni amici. Ha ragione Massimo, dovrebbero arrestare tutti i baresi che massacrano i polpi prima di mangiarli. Dai. No, ma scusami, c'è una regola precisa, ad esempio, su come uccidere il pesce per evitare che il mercurio si diffonda. Ma quello che c'entra con la sofferenza, non dire cazzate. C'entra con la sofferenza perché tu devi ridurre la sofferenza dell'animale. Vabbè, no, per ma evitare che entri. Pazzo, no, pazzo, è una cosa che tu puoi chiedere a qualunque macellaio e anche a qualunque macello. Cioè, tanto più tu riduci la carne di Kobe, ad esempio. Perché la carne di Kobe è considerata carissima e la più pregiata? Perché l'animale è trattato bene, è massaggiato addirittura con la birra. Cioè, no, questo c'entra. Perché la carne. Però che ci ammazzano uguale. Beh, evidente, buonissimo. Ma forza, la... questo ciao, è evidente. Ciao, per... ciao, cosa? Ciao, dove vai? Fermo, anch'io. Basta, ho detto ciao, me ne vado. No. Hai detto da contratto, dici aspetta, ciao, me ne vado. Aspetta. Lo cascio, Antonio. Ciao Bruciani, come stai? Io volevo ringraziarti per quello che hai detto tu. Volevo parlare, però scusami, anche se tu sei il capitano di questa trasmissione, volevo parlare con Parenzo, per favore. Ma è qui Parenzo. Sì, non so se c'è, adesso lo vedo un attimo. Parenzo, vediamo un attimo se c'è. Vediamo se c'è. A me non mi fai ridere manco per cazzo, perché mai offeso. E quando si offendono le persone, mi pare il diritto di replica. Disturbato sei te, hai capito? E infatti, eccolo qua. Allora, nel giro di 40 secondi hai detto coglione. Io ho detto semplicemente che è disturbato. Hai detto che è disturbato perché è quello totale. Totale, disturbato. Perché gli hai dato il disturbato totale? È riduttivo perché sei incazzato per gli aiuti che non arrivano? Perché è un ottimo e simpatico, anche comico, anche se io non lo conosco, ma immagino che lo sia e quindi va benissimo. Però ma per quello che ha detto è un disturbato per totale, io aggiungerei totale, limitativo, semplicemente disturbato. Ecco. Io Parenzo, vedi. Cioè, la Corte dei Conti, siccome non sai niente, la Corte dei Conti che ha bloccato questo. Non è il governo, hai capito o no? Non farmi arrabbiare adesso. Ascolta, perché un conto è una battuta detta in uno spettacolo. Allora, un conto sono le minchiate. Allora, tu hai detto una minchiata. Allora, siccome hai detto una minchiata, è mio dovere precipuo ricordartelo. Allora, guarda Parenzo, ascolta, mi dai 30 secondi? Ma certamente. Mi dai 30 secondi? Ma c'è, con tutto l'amore che ho per te, prego, allora, certamente. Ci sono delle cose che neanche i TG riportano. Solo se uno vive in queste realtà capisce quello che sta succedendo. Ma io ho sentito quello che hai detto. Allora, io mi attendo un attimo. Ma io rimango a quel che tu hai detto, quindi ascoltami, quello che ho sentito. Ma fammi parlare! Allora, ci sono delle persone esasperate. Sì, vabbè, allora sono d'accordo. Stamattina nell'accampamento terremotati di Pieve Torina, certo. Che si è messa a piangere disperata. Ma non lo metto in dubbio, è evidente. Perché c'è un solo bagno funzionante, gli altri sono crollati. Quanto cazzo ci mettono a mettere i moduli abitativi per queste persone che stanno morendo di freddo, di disagi, e fra un po' arriveranno anche le malattie peggio che nel terzo mondo? Allora io, Parenzo, ho detto che questi soldi che abbiamo mandato tutti in buona fede con il messaggino, che cazzo di fine hanno fatto? Perché viene detto solamente adesso c'è il decreto salvabanche, salviamo le banche. Ma cosa c'è da salvabanche? Quelle che hanno fatto ammazzare persone. Cosa c'entra questo con i soldi che non sono arrivati? Italiano. Cosa c'entra questo? Ma lo cascio, capisci o no? No, però ha ragione lui, adesso tu lo stai trattando come un demente mentre ha detto una cosa ragionevole. Totale. Cosa c'entra questo? Ma come un demente totale? Quello si incazza, giustamente, è incazzato totale. Con te come una belva. Cosa c'entra questo col decreto salvabanche? Vedi, questi chiamano minchiato, cioè mettere insieme cose che non c'entra nulla. Allora, perché mettere in dubbio. che quei soldi che le persone generosamente e giustamente hanno dato. Ma lui non fa, non è che fa l'analista economico, lui ma fa il cittadino. Ha detto una minchiata, no. Sottolineo con voglio grande questi soldi che io ho dato. Questi soldi io è vero che ancora dato, non sono arrivati. Perché io lavoro da 31 anni, faccio lo showman nei locali di tutta Italia e mi tolgo una parte per dare ai miei fratelli terremotati. Voglio le prove che questi soldi vengano usati non per fare altri cazzi, ma per quello. Perché io ho due figlie, Parenzo, e se io a mia figlia gli dico ti do 10 euro per comprare i libri di scuola, se mia figlia ci non compra le Barbie e i rossetti, mi fa girare il coglione. Mettere in dubbio che quei quei soldi no, che lui sono stati donati... No, lui dice, perché lui hanno fatto velocemente il decreto salvabanche e invece cosa quei soldi ancora stanno lì? Cosa c'entra il decreto salvabanche con la verifica che la Corte dei Conti sta facendo sul trasferimento dei... Ma sono due cose per... che non c'entrano niente. Lui dovrebbe, secondo me, non mettere insieme tutto, perché sembra che qualcuno se l'è intascati quei soldi. Ma tu gli hai dato del demente, gli hai dato del demente totale. Ma mai offeso, io ci ho tutto registrato, la trasmissione me l'hanno certamente, mandata certamente. Mille persone. Mi ma ci mancherebbe un demente, uno totale. Che non capisce un cazzo. Ma come ti permetti? Ma assolutamente. In vacanza con te io? Ma assolutamente. Non, io purtroppo mi trovo nella infelice condizione di dover confermare che lei tecnicamente non capisce un cazzo. Ma questo ma purtroppo bene, mi trovo allora tecnicamente nella condizione di doverlo verificare, perché lei ancora una volta ha messo insieme il decreto salvabanche, che non c'entra nulla, con la vicenda dei soldi, mettendo peraltro in dubbio tutte quelle associazioni certificate, quello ONG ma non solo, che, o lo Stato che raccoglie soldi per i rifugiati. Lei comunque ha messo tutto. Come i figli piccoli, dai, c'hai ragione te. E comunque, la prossima volta, quando devi offendere... Ma non ho offeso nessuno, ho constatato. Magari offendi con la persona che si può difendere, come ma sto facendo adesso. Ma infatti siamo qua a discutere. Hai ma capito? Infatti ti abbiamo detto chiama quando vuoi, non mi pare che non hai avuto il diritto ciao di replica. Antonio, anzi, grande, benissimo. Ciao Antonio, benissimo. Grande, ciao. Parenzo, ma come fai a stare di fianco a sto puzzone coi tarzanelli? Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. La Zanzara. Pronto, ma senti, ieri ho fatto una cacata gialla al bagno, non so, chiamare tutto. Ma che? È la zanzara? Vabbè, uguale. Se volete dire come costruire barricate contro i migranti, o come fate pompini al vostro partner, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 00 24. Se invece volete dire come cacate sul cesso, o perché le cinesi non lo prendono nel culo, o come sempre volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al topissimo. Ragazzi, vieni un secondo. Beh, questo simpaticissimo, per carità, signore che manda questi messaggi vocali per ricordare come si interagisce con la trasmissione della Zanzara, no? Sì, nella casistica che lui ha testé esposto, ci sono delle cose che ritornano sempre, comunque, no? È un mio, non lo so, ritornano sempre. Se per caso... Simpatico, per carità. Ma simpatico. Uno dei personaggi che ci siamo lasciati indietro in questi giorni, caro Parenzo, si chiama Maria Rosa Marabita o Marabita, non so quale sia la pronuncia. È un consigliere comunale dei Five Stars, dei 5 Stelle a Ragusa, città in mano ai 5 Stelle. Peraltro, c'è un sito che si chiama Picciotti, non so come diavolo si chiama. Vabbè. E la signora Marabita, o Marabita che dir si voglia, Marabita, secondo me, è un po' uscita fuori dai 5 Stelle, critica in maniera pesante da diversi mesi, è subentrata al Consiglio Comunale a settembre, sto ricostruendo la storia, e attacca il sindaco a sprombattuto. Ma non è questo il punto, chi se ne frega, roba locale, roba ragusana, caro Parenzo, cioè. Ma è un personaggio eccezionale, senti, forse l'ha chiamata Beppe Grillo in persona. Il giorno 29 dicembre è stato simpaticissimo, qualcuno mi ha telefonato a casa, allora forse un Beppe Grillo, forse un deputato lì romano, E sicuramente volevano bacchettarmi, sicuramente volevano dirmi tante cose, me l'hanno detta comunque. Comunque io non credo che era né Pepe Grillo né un altro pezzo da 90. Era o non era Peppe o Beppe Grillo, secondo Maria Rosa? E quindi io continuavo a dire tutte le cose che dico sempre qua, no? Che mi vergogno di questa amministrazione è sorda, sordissima. Io non so come fate a ridere, ragazzi, ma com'è che fate? Come ridete? Perché ridete? La situazione è terribile, ma ci parlate con i ragusani? Cioè io non lo so come siete combinate, ma non vi vergognate? Ma forse ridevano per quello che stavano ascoltando, sì, la telefonata segreta di Peppe Grillo. Continua. E quindi io ho bacchettato e Grillo voleva, se era Grillo, io l'ho bacchettato, non l'ho fatto neanche parlare, perché non si può permettere di dirmi non andare, domani ci vai in consiglio comunale, se ti sta stretto il Movimento 5 Stelle vattene. Cioè come si permette? A parte che era troppo stronzo, scusate il termine, per essere Grillo. Cioè io ho conosciuto un Grillo che era una persona meravigliosa, questo era uno stronzo. Questa è veramente la numero uno. Pensa davvero che Peppe Grillo l'abbia chiamata per rimproverarla? Cioè ragazzi, ma non avete vergogna? Dovevamo cambiare tutte cose, le 20 strade da percorrere. Ci abbiamo dato tutti l'anima e il risultato su chiste. E i risultati sono questi, vuole dire? Ah, e poi un'altra cosa, in questi 4 mesi mi avete fatto vedere, come diciamo a Ragusa, tutti i sorci verdi. Mi avete imbrogliato, depistato, di tutto. Mi avete tolto una commissione perché era quella scomoda. Io mi sento il sindaco di Ragusa, perché a me la gente mi conosce, a Federico manco sapo quena. Ecco. Ah, è stupendo, ragazzi. Maria Rosa Marabita. Allora, Giuseppe da Roma, vai Giuseppe, vai. Ciao Cruciani. Dimmi. Tanto faccio i complimenti per la trasmissione. Ce ne frega niente, vai. Non era questo il tema con cui volevo intervenire, perché ho provato più volte in altri temi dove mi sarebbe piaciuto più intervenire, ma insomma. Vai, dimmi. Prendiamo questo qui delle aragoste. A parte che il 90% delle aragoste sul mercato, al supermercato, nei pesci vendoli, ormai è tutto dentro l'acqua, per quello che costano, perché non se ne fa un grand uso, quindi stanno tutte in acqua e vive e vegete. Sì. Soltanto la GDO, quel poco che tratta, la GDO ce l'ha, che sembrano vive, ma non sono vive sul ghiaccio, sono belle che morte da tempo, ma da tempo. Quindi che la Corte dei Conti si occupa di un qualcosa... No, la Cassazione. La Cassazione, scusami, che se ne occupa di una cosa così banale e semplice, mi sembra veramente... Ce ne stanno le cose di cui preoccuparsi rispetto alle aragoste. No, invece secondo i signori della LAV è una cosa diffusissima, capito? È una cosa diffusissima il fatto che le aragoste vengono fatte soffrire nei ristoranti. Evidentemente la gente non gira, perché nel ristorante, se c'è un ristorante e poggio l'aragosta, quante sere la posso tenere qua l'aragosta sul ghiaccio? Viva! Poi gli lo fa animazione tutte le sere. Sì, no, ma sono d'accordo con te, Giuseppe. Tu che fai di mestiere, scusami? Io sembri un tecnico. Assolutamente, c'è un'azienda che lavoro anche per la GDO. Cioè, non ho capito, vendi aragoste, fai la grande distribuzione. Sto tornando dal Marca che tratta GDO, eccetera. Ma che è sta GDO, la grande distribuzione? Grande distribuzione organizzata, assolutamente. Ok, vabbè, vendi pure aragoste, dunque? Anche. E come le vendete, queste aragoste? Le vendiamo, la maggior parte vive... ma la maggior parte sono morte, sono state morte congelate. Sì, certo. E basta, ma come congelate? Ma io ancora non ho mai visto le aragoste, e con tutto che ho, insomma, 40 anni, 38 anni, ancora mi capitano pochissimo le aragoste. No, ma quando uno va nel ristorante, a me è capitato andare in un ristorante e vedere delle aragoste più o meno, è chiaro che devono essere consumate poi le aragoste, cioè gli astici devono essere consumati praticamente subito. Con le chele legate, le ho viste anch'io spesso, le chele legate sul ghiaccio. Ma quindi la Cassazione ha il tempo di indagare. Questo è il punto fondamentale. Danilo Torino, vai, Danilo Torino. Sei pronto? Dimmi. Senti, io penso che siamo arrivati a livelli di assurdità mai visti. Siamo a un punto di depravazione psicologica dal momento in cui stiamo a parlare delle aragoste legate. Ma di che stiamo a parlare? È quello che dico io, amico mio. La Cassazione si è impegnata a fare queste robe qua, mica io. Io ne parlo per pigliarvi per il culo. Parlare, vorrei dire, il signore di Sanremo e quella lì di Roma, che parlavano delle aragoste. Sì. Sono buonissime, sono dei crostacei, sono buonissimi. L'italiano medio, purtroppo, visto il costo non irrilevante del prodotto, ma che se lo può permettere di mangiarselo tutti i giorni, chiaramente. Ed è una delizia. Lastici, allora? Beh, nessuno nega che sia una delizia. Io non le mangio mai perché non sono permesse, quindi non le mangio. Muore come sempre. Tutti gli animali devono morire per essere mangiati. Vabbè, questo lo sappiamo, questi contestano la sofferenza dell'aragosta. Vabbè, ciao amico mio, ciao, ciao. Raffaele Brindisi, vai, Raffaele. Sì, buonasera. Dimmi, vai. Si sente bene? Sì, sì, dimmi. Niente, volevo chiedere al dottor Parenzo, quando una persona denigra a priori, prima ancora di conoscerla o di quello che sta dicendo, dicendole per esempio che è un fuori di testa, che è un pezzente, quelle cose, si può mettere nella schiera dei razzisti? Si può mettere? Nella schiera dei razzisti? Parenzo? Uno che denigra le persone. Aspetta un attimo, aspetta un secondo. Dottoressa De Mari, sono Cruciani, salve. Allora, posso esprimere? No, però devo dire la verità. No, devo dire. No, le posso dire che le sono. No, le sono vicina. No, fermi là, ferma lì. Poveretto. Signora De Mari, 39 sarà, di febbre. Sarà perché sono state approvate le unioni gay, probabilmente. No, ma quello da poco che sono state approvate. Però può essere che l'effetto sia venuto fuori adesso. Va bene, Raffaele, allora? Stavo dicendo, nel momento in cui una persona sta esprimendo un pensiero, va alla vostra radio, come sto facendo io in questo momento, il signor Parenzo, se non gli va a genio quello che sta dicendo, comincia a dire... è un disturbato, è un dipende da quello che uno dice. Vabbè, di quello che, ma dove sei che c'è sto rumore? Scusa Raffaele, che c'è sto rumore? Sembra che stai in fabbrica, dove stai? Io in fabbrica no, sto parlando con l'auricolare, purtroppo sto guidando. Lo so amico mio, l'auricolare si sente bene in questo caso, però... Infatti ve l'ho chiesto prima per non essere ripreso, diciamo. No, però fermati un secondo, non si sente una mazza, dai, fermati un secondo. Dai, allora? Oh, Raffaele! Claudio da Roma, dai, Claudio. Pronto? Dai, pronto? Ragazzi, su. Questo è un altro. Vai, Claudio, dimmi. No, il problema è questo, che circa due ore fa ho sentito una tua affermazione rispetto alle lamentele di terremotati e tu hai detto: ma che vostra gente, purtroppo c'è il terremoto. No, non ho detto questo. Ho detto è il terremoto, non è che ho detto che vuole sta gente qua, riferito a chi stai dicendo? Vabbè, riferito comunque a chi? C'è un terremoto, quindi buoni tutti. No, non mi ricordo. Neve. Non ho affatto detto questo. Cioè, a me non mi interessa. Allora, quelle sono cose di cronaca, sono fatti di cronaca molto gravi. Siamo arrivati a parlare adesso, della Ragusa, quindi adesso pare adesso. Adesso voi dovete fare una cosa: chiudete un secondo gli occhi e pensate che un vostro parente sia in quell'albergo. E allora, ma che voglio vedere se iniziamo a parlare. La colpa non è del governo, è della Corte dei Conti, è della Cassazione. Ma questi che cosa? Sono tutti persona, perché ci stanno 28 milioni che la Corte dei Conti, ma la Corte dei Conti chi sono? Ma questi? Che c'entra di 28? Non è che quelli là sono morti sotto le macerie perché non sono stati spesi i soldi. Dai, no, non dire cazzate. Io, il discorso chiaro è questo, che Parenzo dice vabbè che ve la prendete con quelli quando no, invece dico, la Corte dei Conti. Quando il governo ha delle colpe, a me non mi interessa niente difendere il governo, sulla questione di come sta gestendo l'emergenza, lo valuterò giorno per giorno, se fa una cosa negativa ovviamente lo dirò. Come si fa? Stamattina Gentiloni è andato sul pozzo, si è fatto fotografare. Va bene, ma quello tutti vanno sul posto, anche Salvini è andato a fare un tour sul posto. Ma mezza giornata ai soccorsi. E invece Salvini che va lì e si fa il video. Ma io capisco la tifoseria. Non mi parlare di Salvini che fa ancora più schifo di Gentiloni. No, ma i politici vanno. Che cavalca la tigre. Ma che tigre cavalca? Che è andata lì? cioè parla Salvini. Saranno andati lì anche per rendersi conto di qual è la situazione. Che devo fare? Lì, me ne rendo conto io guardando in televisione, ma che va a fare Salvini? Sì, ma lei non ha responsabilità di governo. Con la camicia verde, ma che vanno a fare? Io sono d'accordo con te, un politico non deve andare lì. C'è un papà che nell'albergo c'ha una ragazza che è rimasta lì perché è responsabile del centro benessere. Vabbè, allora che ce ne poteva andare. Non è arrivato lo spalatore, ci vorrebbe un tipo, un carretto armato che spinge la neve. L'aereo per Renzi da 50 milioni, i soldi si trovano. I vigili del fuoco, le guardie forestali, qui sta a fare tutto. No, è anche è vero, ma Claudio, i soldi li diamo alle banche, lo voglio dire, 20 miliardi alle banche subito. Per quattro disgraziati dentro un albergo non c'è un elicottero per andarli a salvare. Allora, Claudio ha ragione per una cosa. Aspetta, Claudio, no, io ti do ragione su una cosa. Che pare che alcuni mezzi fossero addirittura senza benzina, eccetera, eccetera. Cioè, pare che ci siano dei problemi pazzeschi. Sì, ci siano stati dei problemi pazzeschi nei soccorsi. Pare che per quello che riguarda la protezione civile, sembra da alcune analisi che sia stata una catastrofe. Su questo, Claudio ha ragione. Come ovvio che ma sia, ci mancherebbe altro, ma quando ci sono dei problemi vanno evidenziati, ma non messi insieme con altre cose. Ma non è che dare i soldi per salvare le banche si fa subito mentre quello non viene fatto. Però io capisco anche l'incazzatura di Claudio, non è che non la capisco, la capisco anche. Gabriele da Siracusa, vai Gabriele. Vai. Sì, pronto, buonasera. Dimmi. Io volevo solo chiarire due cose. Io sono un veterinario. E volevo intervenire sulla questione degli animalisti, eccetera. Dimmi. Allora, volevo... te lo chiedo subito, le aragoste, da veterinario, le aragoste soffrono o no? Allora, sì o no? Il problema è il sistema limbico. Le aragoste sostanzialmente non hanno un sistema limbico come noi, d'accordo? Cioè? Allora non che possono... Che vuol dire? Significa che non possono provare emozioni, non hanno un senso di autocoscienza. Per cui non soffrono in sostanza. Assolutamente, ma non possono avere quella, diciamo, ma questi ci raccontano che è provato, che abbiamo noi. Ci raccontano che è provato, questo... ma ci raccontano che è provato scientificamente. Ma no, per favore, queste sono cose veramente incredibili. Guardate che molte cose. Ho capito, ragazzi, Gabriele, devo chiudere. Che devo fare? Devo chiudere, sennò mi rompo i coglioni. Sergio dalla provincia di Savona, ci sentiamo domani, Ciao ragazzi, ciao. Cruciani, ma sei proprio un coglione, sei. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. Libera la voglia di fare.